9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Come vi dicevo già nell'anteprima, consentitemi oggi di lasciare per un attimo da parte il cinismo e il disincanto con il quale normalmente guardiamo alle nostre vicende, alle vicende italiane. Anche se non posso non notare che ieri abbiamo fatto una puntata, come sapete, dedicata alle questioni di scadenze fiscali, e vi segnalo che oggi gran parte dei quotidiani, compreso il Sole 24 Ore naturalmente, titola raccontando che probabilmente alla fine l'aumento dell'IVA ci sarà di un punto percentuale, perché il Tesoro non riesce a trovare un miliardo. Però, insomma, fatta questa piccola parentesi, consentitemi di uscire dal cinismo e dal disincanto solito e di parlare dell'operazione che ha portato al raddrizzamento della Costa Concordia. Mi scrivete, occhio che però non è stata la prima operazione di parbuckling della storia, è già avvenuta con una nave da guerra per Pearl Harbor. Vero, per carità di Dio, però lo scrivono tutti e io non ho motivo di dubitarne, francamente, anche se non sono un tecnico, che per dimensioni, per posizione della nave, per collocazione, questa è un'operazione unica nella storia. Allora, il Presidente del Consiglio Letta ha parlato di orgoglio italiano. Di certo noi abbiamo deciso di intitolare questa puntata idealmente Le imprese che fecero l'impresa, per raccontare anche le imprese italiane che hanno lavorato a tutto questo, ma anche per parlare più in generale di quello che è successo, perché in realtà questa vicenda, pur con l'intervento, avete ragione, di aziende straniere, il coordinamento di un australiano, per carità, tutto quello che volete, però capacità di reagire, di programmare, di mettere insieme competenze e soprattutto il fatto che ci siano queste competenze, di lavorare duro e bene, di fare squadra, di mettere insieme pubblico e privato, che non è sempre una cosa che riesce, come sapete. Su questo ci sono due scuole economiche diverse che si dividono, insomma, chi vorrebbe far fare tutto al pubblico e chi vorrebbe far fare tutto al privato. Quindi ci sono una serie di elementi, secondo me, da raccontare, compresa questa guerra tra porti. Mi dite anche qua via SMS, si mettono a disposizione, non significa mettersi a litigare, vedrete che sfocerà probabilmente in un litigio, in uno scontro tra i vari porti. Anche questo è molto italiano, anche questo campanilismo è molto italiano. Allora, saluto i primi ospiti, ne avremo parecchi oggi, tra cui il ministro dell'ambiente Orlando, che ci raggiungerà tra poco. Iniziamo da un'azienda, però. Iniziamo da Paolo Cremonini, direttore delle operazioni di Fagioli. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Fagioli è un'azienda che produce martinetti idraulici. Mi spiega che cosa sono, Cremonini? Noi abbiamo molte attrezzature, perché il nostro scopo di lavoro principale è quello di supportare il mondo della costruzione attraverso attrezzature specialistiche per movimentare corpi molto pesanti, grossi, enormi, come in questo caso. In questo caso i martinetti sono dei martinetti normalissimi idraulici, che vanno dalle 15 alle 750 tonnellate cada uno e recuperano dei cavi d'acciaio, e quindi mettendo insieme molti di questi martinetti si raggiungono forze molto alte, come in questo caso della Costa Concordia. Quindi possiamo definire una sorta di cuore dell'operazione, nel senso che tramite questi martinetti sono stati tirati i cavi che hanno tirato su la Concordia, questa è la sostanza. Esattamente. Cioè, se avesse ceduto un martinetto o più di un martinetto, l'operazione non sarebbe terminata. In sostanza. Esattamente. Innanzitutto con questi martinetti abbiamo messo già da più di un anno, aveva messo la scorsa estate, in sicurezza il relitto in modo che non si potesse muovere durante tutto l'inverno. Poi all'inizio dell'anno abbiamo realizzato il sistema di ritenuta della nave, un insieme di 11 torri tralicciate che fuoriescono dal mare, ciascuna con una potenza di tiro di 1200 tonnellate, se ne sono 11, e quindi esercitano una forza di circa 13.000 tonnellate per tenere la chiglia della nave ferma in posizione. Allora, Cremonini, la fermo un attimo. Antonio Arienti, direttore generale di Trevi Italia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ha parlato delle colonne, i buchi per le colonne li avete fatti voi? Sì. Ho capito bene, sì. Trevi ha fatto parte di questo progetto, di questa iniziativa che confermo ha sicuramente avuto un cuore tutto italiano e diciamo un'organizzazione, una sinergia internazionale. Noi abbiamo realizzato le opere che servivano per questa grande sfida e che dovevano essere l'ancoraggio, dovevano essere i capisaldi diciamo di un'operazione che già dall'inizio effettivamente aveva delle caratteristiche uniche. Il nostro lavoro, il nostro mestiere è quello di lavorare nel sottosuolo, la nostra società si occupa appunto di ingegneria del sottosuolo ed è una cosa un po' difficile da spiegare perché le nostre opere sono normalmente quelle che non si vedono, sono sottoterra e sono funzionali poi alla portata, alla, diciamo, alle fondamenta delle grandi opere o delle grandi imprese come questa. E quindi voi avete scavato, mi fanno notare, non australiano ma sudafricano, chiedo perdono il capo dei lavori, chiedo pardon, insomma ogni tanto sfugge via qualcosa, no, in questo coacervo di cervelli che si è messo insieme per fare questa operazione. E quindi avete di fatto scavato le buche sottomarine nelle quali sono entrate queste colonne che poi sono servite di fatto a sostenere il tutto. Questi ancoraggi sono stati realizzati attraverso delle perforazioni nei terreni molto tenaci, rocciosi, granitici dell'isola del Giglio, per poi poter inserire barre di acciaio che evidentemente ancorate con malte speciali hanno costituito, come dicevo prima, gli ancoraggi, i ganci, i punti da cui poter esercitare, da cui altre società che hanno contribuito a questo progetto hanno potuto esercitare quell'insieme di forze e di leve enormi per risollevare la Concordia. Allora, fatemi salutare adesso una voce esterna a tutte queste operazioni e parzialmente esterna anche all'Italia. Guy Dinmore, buongiorno. Buongiorno. Corrispondente del Financial Times da Roma, un giornale, naturalmente internazionale, ma insomma con il cuore britannico, Gran Bretagna che non ha mai lesinato critiche sull'Italia, diciamocelo Guy, no? Oggettivamente. Allora, come leggete voi questa operazione? Come la state leggendo? Cioè, mi scrive un'ascoltatrice sulla nostra pagina Facebook, dice questo, secondo me è una lettura interessante. Dice, io vedo tre Italie che per fortuna non dialogano tra loro. Una che combina disastri con superficialità e approssimazione, si riferisce naturalmente al capitano Schettino. Una sciacalla che pensa con cinismo solo a lucrare, ossia chi farà la rottamazione della nave, i quattro porti che già si dividono, poi chissà quanti se ne aggiungeranno e forse con tutte le probabilità la nave verrà portata in un porto straniero, però insomma vedremo. Ed una geniale, esperta e positiva che ci sta aiutando a non affondare. È una lettura suggestiva se vogliamo, però vorrei sentire la tua opinione su questo. Sicuramente l'Italia è un paese molto complessa, ci sono molte immagini del paese, ma volevo dire che sicuramente un po' di orgoglio nazionale, come ha detto Enrico Letta, è giusto, ma come Letta anche ha detto, con la dovuta sobrietà, perché fortunatamente nell'immagine del mondo, l'immagine più indelibile di questa vicenda è sicuramente un naufragio di 20 mesi fa, i 32 morti, il comandante che si è fuggito da una nave e queste parole, vai a bordo, cazzo. Allora, è molto difficile nell'immagine del mondo di recuperare, dici? Recuperare, sì, tutto questo, molto difficile. Sicuramente era un'operazione meravigliosa, ma anche con una squadra molto internazionale, con un protagonista Nick Sloan, sudafricano, e tanti ingegneri inglesi, tedeschi, ma sicuramente anche tanti italiani, ma forse nell'immagine del mondo questa è un'operazione molto internazionale. Allora, io, guardate, mi fate veramente impazzire. Allora, siamo stati appena adesso a discutere della guerra tra i porti, chiamiamola guerra, vogliamo chiamarla discussione animata tra i porti per decidere chi smaltirà i rottami a Costa Concordia, dicendo, insomma, francamente un po' campanilistico, insomma, no? Iniziare già a ragionare su questo. Le prime candidature, guardate, sono arrivate, sui quotidiani del giorno nel quale la Concordia è stata tirata su, ossia ieri mattina. Mi scrivete, dica che la Trevi è di Cesena. Allora, se volete, lo dico, ma insomma, Marienti, non mi sembra questo il punto, Ma come dicevo prima, la nostra società fa un lavoro molto particolare che non si vede, quindi la visibilità effettivamente, come dire, si riscopre in queste occasioni. Il raddrizzamento della Concordia ricorda tanto il raddrizzamento della Torre di Pisa di qualche anno fa, dove la nostra azienda fu protagonista appunto di questo recupero. Quindi sono le partite di cartello dove quando ci sono i riflettori accesi è più facile essere evidenti. Però il nostro lavoro è quotidianamente fa parte e accetta sfide di questo tipo, insomma. Sì, dice, non è, insomma, no, non è una questione di essere di Cesena Ah, no, certo. oppure no. Ancora qualche SMS che mi arriva. Brave le aziende italiane, molto meno bravi i nostri politici che adesso cavalcano l'onda. Forse avete. Su questo magari una domandina al ministro Orlando, adesso che tra poco ce lo avremo, insomma, gliela facciamo. Allora, a Federico De Martini che mi scrive su Twitter: ma si può parlare di sciacalli per i porti italiani? È informazione questa? No, guardi, non ho parlato di sciacalli. Ho letto un SMS, anzi uno status su Facebook, di un'ascoltatrice che parlava di sciacalli, quindi si è solamente riferito a questo. E chiaramente la questione di dove verrà smaltita questa cosa è un elemento centrale, un elemento che andrà ragionato perché può dare una grossa spinta ad un'economia locale. Vedremo però appunto dove andrà a finire la Concordia. Tra l'altro l'operazione è tutt'altro che finita, perché poi questa nave va presa, trasportata, portata in un porto chissà quanto lontano. Vedremo che cosa può succedere nel viaggio. Adesso inizia il lavoro di messa in assetto, per così dire, della nave e per prepararla allo spostamento. Allora, voglio ritornare un attimo da Paolo Cremonini. Lei era là, era al Giglio, sì, no? Ero uno dei 12 dentro la cabina di comando, quindi Era dentro la abbiamo cabina. diretto, sì, abbiamo diretto perché proprio bisognava dirigere l'operazione di ribaltamento perché al di là della produzione, come ha detto lei, di quei martinetti, la Fagioli si è occupata di tutta l'ingegneria relativa alla nostra attività su questo progetto e alla preparazione e a tutto il servizio con personale molto esperto in cantiere. Cremonini, Io non ne raccontro una. mi deve dire, non da direttore delle operazioni, ma da uomo, com'è stato là dentro. Me lo deve È raccontare. stata un'esperienza bellissima perché tutto il team di progetto di 500 persone è molto affiatato, cioè ci si aiuta a vicenda anche tante aziende, tante nazionalità, ma siamo un team unico. All'interno della control room c'era un clima molto collaborativo, tutti in silenzio, si parlava solo quando ci si doveva scambiare i comandi, le osservazioni, i parametri dell'operazione. E quando la nave poi alle 4:03 del mattino, del giorno dopo che è iniziata, ha toccato la piattaforma sotterranea, sott'acque, c'è stato qualche secondo di silenzio e poi è scoppiato un applauso fra di noi, proprio liberatorio, e le navi intorno alla Concordia hanno suonato la sirena per accogliere di nuovo la Concordia. Qualche birra con Sloan sarebbe avuta pure lei? Assolutamente, più di una. Ah, più di una, giustamente. Allora, sentiamo Marco da Roma, il primo ascoltatore, buongiorno. All'800, ve lo ricordo, mi scusi Marco, 800 24 00 24, ma insomma lo conoscete il numero, Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, l'esempio della Concordia per dire che l'Italia funziona può essere molto bello, però secondo me è più il fatto che se noi avessimo le persone giuste al posto giusto, tutto il paese potrebbe andare bene. In realtà sembra che in ogni situazione che noi abbiamo, un comandante che si approfitta di una certa situazione, un comandante della Concordia, che ha fatto quello che ha fatto, e invece di portare la nave verso il largo, ha combinato quello che ha combinato. Quindi sì, è vero che questi sono stati bravi tecnicamente, però non è tanto l'Italia che funziona in quel modo, è l'Italia che funziona in quell'altro modo, cioè mettere persone come il comandante, perfino fino da quello che abbiamo potuto leggere dalle cronache, nel posto che funzionano. Non è così difficile. Quello che dico è esattamente questo, che abbiamo dimostrato che sostanzialmente è possibile mettere insieme queste competenze, è possibile mettere insieme queste capacità, soprattutto abbiamo le risorse all'interno del paese dal punto di vista tecnico, della capacità ingegneristica e della capacità delle nostre aziende di fare dei prodotti e delle cose, insomma, di qualità molto elevata. E sullo snodo io sono perfettamente d'accordo, Marco, il punto è trovare le persone giuste al posto giusto. Allora saluto e lo ringrazio per il suo intervento, Guy Dinmore, corrispondente del Financial Times da Roma, per essere stato con noi. Gli chiedo scusa se l'ho fatto parlare poco, però mi interessava anche sentire le storie da là, e lo ringrazio e lo lascio, perché oggi sarà una giornata piuttosto intensa per lui, come per tutti noi giornalisti, per le consuete vicende politiche delle quali non voglio nemmeno parlare. Grazie Guy, buona giornata. Grazie a te. A presto. 9 in punto. Ah, che bello, vedo che vi dividete su questa cosa. Mi scrive qualcuno via SMS: la solita solfa autolesionista. Se lo avessero fatto i francesi o i tedeschi, ci avrebbero campato di rendita d'immagine per un anno. E un altro ascoltatore di segno opposto: siamo stati gli unici in grado di affondare la nave da crociera più grande del mondo. In questo siamo stati bravi, non a riportarla a galla, scrive Marco da Verona. Mi scrive Fatima Carbonara su Twitter: invece il problema dell'Italia è chi è dentro la control room. Bravi tutti quelli della Concordia. Abbiamo una persona nella control room, c'è Andrea Orlando, ministro dell'Ambiente, buongiorno. Buongiorno. Nella control room dell'Italia, naturalmente, non nella control room del Giglio, evidentemente. Allora, la voglio... Beh, un po' il Ministero dell'Ambiente è stato anche nella control room del Giglio, dall'inizio. Fin dall'inizio. Allora, sento una cosa... Abbiamo sentito sia lei che il Presidente del Consiglio Letta ieri parlare di orgoglio nazionale su questa vicenda, nemmeno 3 ore dopo il recupero della Concordia già si litiga su quale porto deve accogliere il relitto, posto che adesso inizia un'operazione complicatissima, Ministro, no? Infatti io penso che sia una discussione assolutamente prematura e fuorviante. Adesso si tratta di mettere la nave in sicurezza, di consentirgli anche di affrontare lo spostamento, quindi anche di ripristinare per come possibile la fiancata deteriorata, di recuperare, io mi auguro, anche i 2 corpi, e poi di ragionare con la nuova primavera, con la primavera del prossimo anno, su qual è la destinazione più idonea. Ma adesso questo derby e questo scatenamento dei diversi porti lo trovo assolutamente inutile, perché alla fine il criterio che andrà attuato è molto semplice: il porto più vicino pronto al momento dello spostamento. E questo è il punto. Tra l'altro la possibilità che vada all'estero, in realtà la nave è abbastanza forte, mi sembra di aver capito. Ma sa, all'estero dipenderà molto dalla filiera poi delle demolizioni, nel senso che è necessario da qui ad allora che i porti che rivendicano la possibilità di ospitarla, a partire da Piombino, che è idealmente la collocazione migliore perché è quella diciamo più prossima, si attrezzino anche per fare in modo tale che ci siano aziende in grado poi di chiudere tutto il ciclo della demolizione e del conferimento in discarica delle parti non più riutilizzabili, del riciclo di quelle riutilizzabili. Insomma, è un grande lavoro, anche smontare una nave così è un grande lavoro ingegneristico che va approntato. Quello che dobbiamo evitare assolutamente è che questa nave alla fine sia portata in paesi del terzo mondo dove le navi vengono demolite e smaltite in condizioni di assoluta pericolosità e senza nessun rispetto della normativa ambientale e del lavoro. Allora, detto ciò, la soddisfazione c'è per il successo di questa operazione, no? Beh, sarebbe un po' davvero autolesionista non manifestare una soddisfazione per un'opera, è vero, diciamo, noi abbiamo sulle spalle la ferita di quella notte, però abbiamo anche ora l'orgoglio di aver realizzato un'operazione che non ha precedenti nella storia della marineria. E io vorrei anche un po', come dire, rivedere la lettura che si dà di questa vicenda, perché rischia di essere tutta legata alle 24 ore cruciali nelle quali si è incominciato a lavorare sullo spostamento. In verità questo è un lavoro di squadra coordinato dalle persone che poi sono state determinanti nel passaggio del raddrizzamento, ma è un lavoro che viene da lontanissimo, di studio, di approfondimento, di ricerca. Ci sono enti che hanno monitorato le acque, la Marina Militare, mi scusi Ministro, persino il DNA dei ricci, come ha detto Gabrielli, perché questo tutto. Poi la riguarda strettamente, insomma. Noi abbiamo, ecco, quando diciamo che non ci sono stati, diciamo, ulteriori danni ambientali, oltre naturalmente quelli provocati al momento dell'impatto, lo diciamo non perché abbiamo guardato l'acqua al televisore, diciamo, lo diciamo perché c'era una campionatura costante delle acque, della fauna, di tutto il contesto ambientale, insomma un lavoro serio e preparato nel tempo, con anche, questo ci tengo a dirlo, con anche tanti piani B, perché si è discusso in questi giorni cosa succede se non funziona il meccanismo. Ecco, non c'era un piano B, ce n'erano tanti, perché come abbiamo visto quando c'è stato l'intralcio dei cavi, c'erano già delle contromisure che erano previste nel caso, diciamo, di incidenti di percorso. Quindi io dico che davvero dobbiamo essere orgogliosi, ma per una ragione un po' diversa da quella per cui noi spesso ci vantiamo. In questo caso non è stata l'improvvisazione, in questo caso è stata una capacità di coordinarsi, di fare squadra e anche di programmare le difficoltà possibili, che credo, diciamo, costituisca un motivo di soddisfazione significativa e anche, vorrei dire, forse una dimostrazione che, contrariamente a quello che si dice, pubblico e privato possono collaborare e il pubblico può mettere in campo anche delle eccellenze, perché tutto questo è stato sotto l'egida di importanti competenze di espressione dello Stato. Andrea da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prego. Ieri, assistendo a questo evento, al di là del parallelismo che si poteva fare tra il risollevamento del paese della nave, insomma, che lascia un po' il tempo che trova, il mio pensiero è stato questo, cioè come in realtà dal punto di vista tecnico e organizzativo sia stato molto esemplare la cosa della necessità del nostro paese di liberarsi da tutta una serie di vincoli, di regole e di balzelli amministrativi che bloccano l'idea, che bloccano il modo di agire delle imprese, di poter ideare, perché qui alla fine dei conti si è potuto risollevare questa nave, perché si è potuti mettere in campo idee e poter lavorare senza avere mille regole, mille blocchi da una parte, dall'altra, permessi, contropermessi, controlli da sopra, da sotto. Si è potuto mettere in campo l'innovazione, l'idea, ed è quello che in questo momento serve anche per la crescita del paese, essere liberi non di poter fare quello che si vuole, ma di poter avere un pochettino meno la strada segnata e avere un po' la capacità di mettere in campo quell'innovazione e quelle idee che hanno sempre contraddistinto il nostro paese. Per chiudere, c'è una storiella molto carina che gira su internet, quella che dice: se Steve Jobs fosse nato in Italia e si fosse chiamato Stefano Cancelli, dopo un po' nel suo garage gli sarebbero arrivati i vigili urbani, gli sarebbe arrivato qualcun altro, il Ministero delle Telecomunicazioni, insomma alla fine avrebbe chiuso, avrebbe affittato il garage e buonanotte al computer. Buona giornata. Grazie Andrea. Allora, Ministro Orlando, gli abbiamo messo un applauso alla fine dell'intervento di Andrea, perché suonava proprio bene. Sì, no, ma è una considerazione che in generale è condivisibile. Non credo che si attagli molto a questa vicenda, perché tenete conto che il collaudo delle piattaforme che sostengono la Concordia era di un cubo di carta enorme, le autorizzazioni richieste sono state infinite, c'è stato solo che la differenza è che tutto questo è avvenuto in una situazione nella quale si è realizzato tra i diversi soggetti autorizzatori, quindi non in assenza di regole, ma con una capacità di pronunciarsi in parallelo, in modo tempestivo, che naturalmente era la condizione per fare l'operazione, che spesso non si ravvisa nella nostra pubblica amministrazione. Però non vorrei che si generasse l'idea che, come dire, che Costa e chi ha progettato la cosa si è esercitato nel vuoto, cioè in un'assenza di regole. Ahimè, lo hanno anche spesso lamentato, noi abbiamo vigilato in modo anche talvolta, diciamo, ossessivo sui diversi passaggi, perché non credo, ecco, che molti altri soggetti privati abbiano avuto il sistema di vincoli e di regole che ha avuto chi ha realizzato chi ha progettato questa operazione. La differenza è che abbiamo avuto una pubblica amministrazione che in questo caso, e per ragioni di necessità e di urgenza, si è pronunciata in modo tempestivo, e poi con funzionari di altissimo livello, a partire dal prefetto Gabriele. Sarebbe bellissimo, appunto, che la pubblica amministrazione lavorasse sempre in questo modo. Allora, saluto intanto Simone Antonini, che è titolare della Nuova Olm, ecco un'altra delle aziende che hanno partecipato a questa impresa. Buongiorno Antonini. Salve, buongiorno a tutti. Allora, prima però, insomma, io so che il ministro Orlando non può rimanere a lungo, e quindi ho un ultimo paio di domande per lui. Innanzitutto sul rischio ambientale, lo possiamo escludere anche nella fase di trasporto? Ci sono ancora dei rischi? No, non va mai escluso, perché va sempre mantenuta, diciamo, la premessa, cioè il fatto che è un'operazione che non è mai stata fatta. Però devo dire che, diciamo, il rischio più grosso era già stato eliminato prima di queste operazioni, perché questa è una storia che si racconta meno, ma lo svuotamento degli idrocarburi era, diciamo, la cosa più rischiosa, ed è avvenuta senza uno sversamento di una goccia. Adesso c'è da fare sicuramente la pulizia, la bonifica della nave, che comporta ancora qualche problematicità su cui bisogna vigilare con massima attenzione, e poi lo spostamento. Però possiamo anche dire che rispetto alle fasi precedenti abbiamo il vantaggio di aver già realizzato questa, quindi molti elementi sulla tenuta strutturale della nave, sul modo in cui intervenire, adesso non sono più basati soltanto su modelli ingegneristici, ma su una prova concreta, e questo rende le ulteriori operazioni relativamente più sicure. Naturalmente un grado di cautela va sempre mantenuto. Le ultime due domande. La prima è quella che ci arriva da molti ascoltatori, e quindi gliela devo dire, Ministro. Dicono, però il governo sale sul carro dei vincitori, per così dire, su questa vicenda. Ma questo onestamente è un atto. Io guardi, sono andato al Giglio il primo giorno del mio insediamento, ho ottenuto costanti rapporti con le comunità locali, nell'osservatorio e nella control room erano presenti i rappresentanti dei diversi ministeri. Noi abbiamo fatto una riunione in una fase in cui non si sapeva come andava a finire, proprio pochi giorni prima della vicenda, a Palazzo Chigi, nella quale io, il ministro Lupi e il presidente Letta ci siamo confrontati con il prefetto Gabrielli, abbiamo preso la decisione, partiamo o non partiamo, e abbiamo detto partiamo, perché nonostante ci fossero dei margini di rischio, il prefetto Gabrielli ci ha rappresentato un dato, che attendere era la possibilità che creava più rischi in assoluto, quindi avere anche ulteriori elementi che in certe fasi sono stati chiesti, però dover aspettare molto tempo avrebbe comportato inevitabilmente una crescita del rischio dovuta al deterioramento della nave. La decisione l'abbiamo presa insieme, ci abbiamo messo la faccia in un momento in cui nessuno poteva garantire il fatto che la cosa si sarebbe stata con questo esito. Quindi, francamente, in questo caso alle volte succede che, diciamo, la politica prova a rincorrere diciamo, i risultati della buona amministrazione. In questo caso mi sembra francamente una critica ingenerosa. Ultima domanda che le faccio, gliela devo fare, se domani ci sarete ancora come governo, stasera il voto della giunta, il videomessaggio di Berlusconi, la giornata che ci si attende, ci sarete ancora? Guardi, io penso, io non la deve fare a me questa domanda, perché credo che a questo punto, diciamo, la valutazione stia ad altre forze politiche. Noi non abbiamo mai connesso il passaggio di oggi, parlo come Partito Democratico, il passaggio di oggi alla tenuta del governo, quindi a questo punto la domanda va rivolta ad altri. Se non dovesse esserci, diciamo, un'ulteriore attività del governo, credo che comunque possiamo dire che con questa vicenda segniamo un punto positivo. Spero che non sia l'ultimo, ma nel caso, diciamo, possiamo dire di aver fatto il nostro lavoro con impegno, con dedizione e anche con qualche risultato. Immagina il voto eventualmente se cade il governo? Ma anche questo, guardi, mi sembra prematuro fare questa discussione. Come per i porti. Credo che bisognerà vedere con chiarezza quali sono le posizioni che ognuno si assume. Io mi auguro, diciamo, il PD ha detto quali sono le proprie, ha detto come intende privilegiare l'interesse nazionale, come non ritiene però compatibile qualunque costo. Adesso mi pare che siano altri che devono un po' dire che cosa vogliono fare. Grazie Ministro per essere stato con noi e per essersi prestato anche a questo paio di domande politiche. Buona giornata. Buona giornata a lei. Allora, Simone Antonini, tra poco ci collegheremo anche con la nostra inviata Raffaella Calandra. Prima fatemi rispondere a Nicola Leonesio che mi scrive su Twitter: il successo Concordia sarà inesorabilmente rovinato dalla lentezza burocratica per l'assegnazione della demolizione. Non si preoccupi, perché quella roba la decide la Costa e quindi non ci sarà lentezza burocratica da questo punto di vista. Allora, Simone Antonini, in 30 secondi poi la riprendiamo subito dopo la pausa per la viabilità. Nuova Olmec. I blocchi di ancoraggio avete fatto voi? Noi abbiamo fatto, non solo, diciamo, abbiamo fatto il primo lavoro sul quale abbiamo approcciato su questo progetto di parbuckling, è l'anchor block. Non abbiamo poi fatto anche altre strutture, quali pipe thruster e tutti praticamente i sistemi di ancoraggio. L'anchor block, diciamo, è stato forse il primo progetto sul quale la Concordia si è sviluppato, sul quale è venuto anche gestire l'urgenza della quale ci richiedevano. Abbiamo dovuto lavorare quasi a 3 turni per cercare di garantire, diciamo, la tempistica di consegna. Questo grazie anche alle maestranze che hanno dato risposta immediata alla cosa. Ecco. 9 in punto. Allora Antonini, la voglio anche su una riflessione un po' più generale, quella che stiamo facendo dall'inizio, insomma, no? La capacità alla fin fine di questo paese. Ci dice, mi scrive un ascoltatore, oggi vi vedo abbastanza stimolati, ecco, soprattutto sui social network, sugli sms. Roberto Ongaro mi scrive, con la Concordia celebriamo l'eccezione, l'unico ambito in cui si esprimono capacità ed efficienza di cui avremmo sempre bisogno. Che dice Antonini? Diciamo che ne abbiamo tante altre, ma le sfruttiamo male forse, o non le sappiamo utilizzare. Ah, così, secco? Secco, sì, bisogna essere diretti. Magari, come ho sentito parlare anche molte volte al telegiornale, anche dai nostri ministri e tutto, anche ieri, ho notato che si ricerca un pochettino la nostra professionalità, che per il mondo è apprezzata, magari in Italia non viene un pochettino sminuita. Già, perché poi voi siete, io ancora in linea, allora, Arienti e Cremonini, naturalmente le vostre sono aziende che, partiamo da Arienti, che operano moltissimo all'estero ovviamente. Sì, infatti io ho ascoltato un po' i vari commenti e ci terrei magari a mantenere il binario che lei inizialmente ha impostato, cioè quello di abbandonare per un attimo il cinismo sulle vicende italiane e concentrarci effettivamente sui contenuti di questo intervento, che in realtà appunto è quello che forse ultimamente è agli onori delle cronache, ma sicuramente la nostra azienda ad esempio è abituata a entrare in queste situazioni così di tensione, di emergenza, e lo facciamo sempre dalle fasi iniziali. Noi al Giglio siamo stati tra i primi a entrare in cantiere con i sondaggi, con quelle che sono state le verifiche del sottosuolo, e quindi fasi determinanti poi dopo per l'impostazione di tutto il progetto. Ma se andiamo a vedere quello che Trevi fa normalmente, noi siamo stati i primi ad entrare per esempio nel World Trade Center a iniziare il ripristino di quello che è il lavoro che è stato inaugurato pochi giorni fa, a New Orleans, ecco, quando ci fu il dramma di Katrina per il ripristino dell'argine. Le eccellenze italiane, comprese la Trevi, sono intervenute per la rimessa in sicurezza, diciamo. Quindi credo valga la pena di convincerci che in Italia, sicuramente anche in questo settore, anche sul tema delle emergenze, noi riusciamo molto bene per quello che riguarda i siti inquinati, ad esempio il campo delle dighe. Accennavo prima un altro caso eclatante, insomma, negli ultimi anni, l'intervento sulla Torre di Pisa. Non ci mancano certamente le competenze. All'estero condivido, come diceva Antonini, forse siamo molto molto apprezzati e in Italia invece tendiamo un pochettino a sottovalutarsi. Mi chiedete chi la paga l'operazione Costa Concordia, addirittura urlando, vi segnalo che quando mettete tutto maiuscolo sia negli SMS sia sui social network equivale ad urlare, li paga la Costa queste operazioni. Raffaella Calandra, ce l'abbiamo, è caduta la linea con lei, la nostra inviata al Giglio che ha seguito questi due giorni di operazioni, è caduta la linea, adesso la recuperiamo e chiederò conferma. Cremonini, stessa domanda anche per lei, immagino che operiate all'estero prevalentemente voi, no? Assolutamente, prevalentemente, ha detto bene, noi operiamo in tutti i continenti, in operazioni di ogni genere nel campo della produzione, energia, offshore, infrastrutture, in tutti i continenti, e siamo, direi, come succede spesso a molte aziende italiane, quasi più apprezzati, stimati e utilizzati all'estero che in Italia, perché c'è un pochino di secondo me di troppa esterofilia in Italia, si predilige spesso le aziende straniere. Solo una battuta aggiuntiva, sì, a tutto quello che è stato detto stamattina. Adesso siamo tutti molto molto contenti, tutto il team di lavoro, le aziende, l'opinione pubblica, molto soddisfatti dell'operazione, ma il tutto non è assolutamente ancora terminato, anzi l'altra operazione molto importante e difficile è quella del refloating, del rigaleggiamento, nella quale la Fagioli continua a essere impegnata a livello di ingegneria e poi di operazioni, che verrà esercitata la prossima primavera, dove in questa operazione già nel parbacchi, nel raddrizzamento, le forze in gioco erano quasi 13.000 tonnellate, e nel rigaleggiamento sarà quasi 4 volte la forza da mettere in gioco, sempre con attrezzature Fagioli. Raffaella, è un'altra sfida, è un'altra sfida, vedremo come andrà. Raffaella Calandra, allora, ti abbiamo recuperata, sei in traghetto verso Piombino, cioè non sei verso Piombino da quel che ho capito, ma non sulla Costa Concordia, perché su quello non si è ancora deciso, ma su un traghetto, no? Esatto, sono terraferma. Allora, innanzitutto una cosa rapida, Raffaella, perché ci chiedono in molti chi paga questa operazione, la paga la Costa, no? Questa operazione, l'operazione di parbuckling l'ha pagata la Costa, no? 600 milioni di dollari fino adesso, ma l'hanno già detto esplicitamente, andranno ad aumentare. Allora, Raffaella, diretta verso Piombino, abbiamo sentito il ministro dell'ambiente, dice prematura, no, questa cosa della guerra tra porti per smaltirla. Certo che è in ballo, è già in ballo la questione. Ma non è poi così tanto prematura, perché in realtà, considerando l'obiettivo rimuovere la Concordia dal Giglio entro la primavera del 2014, diciamo, è necessario stabilire quale sarà il posto che sarà demolito, perché bisognerà andare a verificare le condizioni tecniche dei porti per poter effettuare un'operazione di questo tipo, che richiede soprattutto dei fondali e una profondità di pesca. Però purtroppo evidentemente il movimento che c'è in mare sul traghetto non consente di avere una buona linea con Raffaella Calandra. Matteo da Livorno, se riesce a stare in 20 secondi, grazie. 20 secondi, sarò telegrafico, buongiorno agli ascoltatori. Allora, velocemente, al nostro corrispondente inglese del Financial Times vorrei ricordare che comunque è vero, il team è un team internazionale, anche perché soprattutto le nostre sono ditte internazionali. Comunque le teste e il coordinamento è un coordinamento italiano, e il coordinamento, e questo l'ha dimostrato il buon comandante Schettino, quando non c'è la testa in alto che governa bene, non funziona nulla. Credo che nello scenario che si dipinge l'Italia sia così: quando ci sono le persone che non sanno lavorare bene, il comandante Schettino ce l'ha insegnato a tutti, succede quello che succede. Quando ci sono le teste corrette, funziona. Funziona. La ringrazio, Matteo, grazie. Devo chiudere. Grazie a Laura Fagin in redazione, è stata preziosissima, ha lavorato come un'assassina per portare tutta questa gente qua. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. A tutti voi per l'ascolto, e tra un attimo saprete quanti giorni mancano all'aumento dell'IVA. Perché? Perché sui giornali si scrive che aumenterà. A domani. Ricordati! Mancano 12 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.